Euroreportage. SOS Default. L'Europa verso l'unione bancaria. Di Stefano Totoro. Correre ai ripari dopo lo shock di Cipro. Mettere a punto un sistema di protezione perché il vento di Nicosia non torni a soffiare. Lì, quando le due principali banche stavano per fallire, i correntisti capirono che avrebbero anche loro pagato il conto salato. Si salvarono solo i depositi sotto i 100.000 euro, garantiti da una direttiva dell'Unione Europea. Ma adesso proprio l'UE ha deciso di dotarsi di regole chiare nel caso in cui dovesse verificarsi il peggior scenario possibile, ovvero il fallimento di una banca. Il proposito dell'Europa è quello di una solida convergenza, di una governance precisa nel settore bancario e soprattutto di controllare un eventuale fallimento. Michel Barnier, commissario europeo responsabile per il mercato interno e i servizi, spiega in un'intervista a Gigi Donelli cosa c'è alla base della riforma dell'Unione bancaria. Per me la crisi di Cipro e la maniera dont elle a été réglée, ce n'est pas le modello. Per me la crisi di Cipro e come è stata risolta non è certo il modello da seguire. Parliamo di cosa quando parliamo di banche? Parliamo della fonte principale di finanziamento dell'economia. Il 70% dell'economia italiana, comunque europea, e quindi l'impresa, le province, la regione, il consumo, questo 70% è finanziato dalle banche. E allo stesso tempo parliamo anche della fonte principale di rischio. Eh bien, c'est précisément ce que nous faisons. Ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare, cioè pour le secteur bancaire, ripristinare basi solide per il settore bancario affinché le banche ricomincino a fare quello che è il loro mestiere, e cioè prestare soldi alle imprese, segnatamente alle piccole e medie imprese, finanziare i territori, e allo stesso tempo le banche devono essere robuste, devono essere ben capitalizzate, ben sorvegliate, ben governate. La riforma europea sull'unione bancaria si basa essenzialmente su tre tasselli: la supervisione unica da parte della BCE, il sistema unico di fallimento e il fondo di risoluzione. In estrema sintesi, il meccanismo funzionerebbe in questo modo. La Banca Centrale Europea, supervisore delle 6.000 banche europee, segnalerà quando una banca si trova in difficoltà e ha bisogno di essere salvata. Un'agenzia, formata da rappresentanti di BCE, Commissione Europea e autorità nazionali del paese della banca problematica, preparerà il fallimento ordinato dell'istituto. Avrà ampi poteri in questa fase preparatoria e sarà responsabile delle decisioni principali su come la banca farà default. Sulla base della raccomandazione dell'agenzia, la Commissione europea deciderà se e quando far scattare il fallimento ordinato. Alfredo Pallone, parlamentare europeo del PDL e membro della Commissione per i problemi economici e monetari, sta seguendo da vicino l'iter verso l'unione bancaria. Sui problemi di risoluzione prevede maggiormente che ci sia un fondo unito, comunitario tra le banche, dove se può essere adoperato sia per un problema di risoluzione, ossia di fallimento della banca, che prevede che gli utenti che hanno dei depositi bancari fino a 100.000 euro, loro possono essere tranquilli, al di fuori dei 100.000 euro, dopo naturalmente una metodologia. Prima sono gli azionisti, quindi i banchieri, poi arrivano le obbligazioni alle banche, però ecco, anche qui c'è un fatto che è un fatto importante. Una volta, quando le banche fallivano, ci rimettevano i consumatori e molto spesso lo Stato entrava, creando poi dei problemi sul debito di Stato, quello che è accaduto in Irlanda quando ha fatto fronte al fallimento delle banche irlandesi. Allora, qui invece gli azionisti sono i primi a dover pagare, quindi questo è un fatto, credo, positivo, perché non è giusto, insomma, che paghi lo Stato, quindi pagano i cittadini su queste cose. Mm. L'unione bancaria è fortemente voluta dalla maggior parte degli stati europei. Secondo il governatore della BCE, Mario Draghi, è indispensabile e il meccanismo di risoluzione è un pilastro della riforma. Ma è proprio su questo secondo tassello, quello del default ordinato, che la discussione in sede europea è molto accesa. Si scontrano soprattutto due blocchi, quello guidato dalla Germania, che vuole regole rigide uguali per tutti, e quello guidato dalla Francia, che vuole invece flessibilità nella scelta di chi deve pagare il conto. Ancora il commissario europeo Alfredo Pallone. Io credo che è importante dire che l'Unione bancaria sono già stati avviati in Parlamento e in Consiglio, ma siamo rimasti bloccati sul problema della discrezionalità, che è uno dei fattori negativi rispetto alla vera Unione europea. Allora, il primo è il meccanismo di supervisione bancaria, che è stato votato dal Parlamento in seduta plenaria durante il mese di maggio. Il Parlamento ha lanciato un messaggio importante, cioè la necessità di avviare al più presto un meccanismo di supervisione degli enti creditizi europei sotto l'egida della BCE. Ma dobbiamo dire che su questo asse è rimasto bloccato il Parlamento, perché è stato rimandato il voto, perché ancora il Parlamento tedesco si esprime sulla legittimità del controllo delle banche tedesche. La Germania si oppone perché, voglio dire, ci sono diversi pensieri. Quello più vicino a me è che se c'è stato qualche paese che da questa crisi, voglio dire, si è avuto più benefici, è proprio la Germania. Sono quelli che hanno, voglio dire, beneficiato di questa situazione. Alcuni dicono che hanno paura della crisi delle banche europee, non conoscono bene, ma la supervisione bancaria serve proprio a questo, ossia un controllo della BCE insieme alle banche centrali, dove c'è voglio dire, una supervisione che permette di dire se una banca è, voglio dire, può entrare in crisi oppure è una banca che può stare sul mercato. Ma il ragionamento vero è che anche quando abbiamo parlato di supervisione, loro ad esempio la supervisione non la vogliono su tutte le banche bavaresi, per cui si oppongono a una serie di banche che sono, voglio dire, loro sì, sotto il controllo della politica. Oggi noi non abbiamo il controllo sulle banche, voglio dire, non sappiamo cosa sta accadendo in Olanda o cosa accade in alcune banche di una parte della Germania, dove possono benissimo avere delle tossine interne, nel senso che hanno avviato delle operazioni finanziarie abbastanza pericolose. Dunque, l'opposizione della Germania è dura. Da Berlino si frena anche in vista delle prossime elezioni di settembre. L'idea del fondo trova il governo guidato da Angela Merkel completamente contrario. Un salvagente unico non è pensabile per i tedeschi, che temono che il proprio sistema bancario possa prosciugarsi per salvare le banche dei paesi che non hanno più un soldo in cassa. Ogni idea di mutualizzazione del rischio per la Germania è inaccettabile. Supervisione bancaria sull'asse specialmente, voglio dire, che riguarda poi il controllo delle banche. Beh, noi abbiamo votato in commissione, e qui che c'è l'assurdo, per cui dovrebbe essere aperto un dibattito politico serio e corretto, prima ancora politico e poi tecnico. Beh, abbiamo votato in commissione, abbiamo votato in Parlamento, votato nel senso che siamo tutti d'accordo, è stato richiesto il rinvio del voto unanime del Parlamento per far esprimere prima il Parlamento tedesco. Noi siamo a favore dell'Europa, ma dobbiamo avere pari dignità al tavolo europeo. Non è possibile che c'è un paese che frena sempre e comunque il discorso dell'unità europea. Unità europea che è un fatto politico, e dopodiché dobbiamo però tradurre l'impostazione teoretica alla prassi. La prassi è questa, ossia, guardi, noi possiamo uscire dalla crisi, io sono d'accordo col piano sulla disoccupazione giovanile, il piano delle PMI, sono tutte cose importanti, ma il tema cruciale è l'unione bancaria. Nei momenti in cui c'è l'unione bancaria, le nostre banche che hanno problemi di liquidità possono riniziare a togliere il credit crunch e fare un'erogazione alle imprese e alle famiglie. Se noi rimaniamo con questa ambiguità, noi la crisi ce la portiamo dietro per parecchio tempo ancora, e non so neanche se riusciamo a uscirne. Divisioni, contrarietà e conseguenti ritardi non fanno altro che allungare i tempi di realizzazione e messa in atto dell'unione bancaria. quello che dovevamo fare in Parlamento noi l'abbiamo fatto. Ci siamo fermati l'ultimo momento sull'unione bancaria, quindi sul meccanismo di supervisione bancaria e sul meccanismo di risoluzione bancaria, perché ce l'ha chiesto il Parlamento tedesco, il governo tedesco. Dovevamo farla ieri, io le dico questo. Lei dice 2015, io credo che c'è la possibilità di farlo anche prima. Alla riforma dell'Unione Bancaria Europea non guarda soltanto l'Europa, ma tutto il sistema finanziario mondiale, perché gli istituti di credito presenti nel vecchio continente sono di dimensioni molto importanti. Per questo anche il Fondo Monetario Internazionale sottolinea la necessità di andare avanti affinché venga ridotta la frammentazione del mercato finanziario. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.